Io ho avuto modo di, diciamo, di leggere l'opuscolo e vabbè, ho potuto constatare che più o meno si nota che viviamo in regioni confinanti, visto che quella che voi chiamavate fatalità, che poi in realtà, cioè, è rassegnazione o comunque assenza di una cultura di lotta rispetto a tutta una serie di questioni, è quello che ci viviamo pure noi. E visto che la posizione in cui ci troviamo è la stessa, cioè di un'opera che è in programma ma che non è che sta già venendo realizzata, rispetto all'azione e alla capacità di coinvolgere gente nella lotta, voi come state riuscendo a fare? Riuscite a acchiappare gente X, soltanto gente che già accompagna o sensibile rispetto a tutta una serie di questioni? Se ci state riuscendo, come ci state riuscendo? Perché a noi ci riesce molto male, visto che siamo seduti qua, ci stanno tutte facce conosciute e non la cosiddetta Ed è gente. l'estere. Sì, è estere ma conosciute, insomma. Soliti noti. Ora ci No, torniamo a noi parlare di questo. abbiamo iniziato, diciamo, un percorso un po' classico, no? Nel senso che abbiamo iniziato con la controinformazione, dal nostro punto di vista, che era appunto non affrontare la questione del gasdotto, non affrontare soltanto la questione del gasdotto, ma provare ad affrontare questa questione del gasdotto e delle nocività, visto che appunto siamo regioni confinanti, quindi ne abbiamo tante, no? Perché tipo da noi c'è l'emergenza energie rinnovabili, no? Chi è della zona, insomma, si rende conto che le campagne sono piene di fotovoltaico, c'è l'eolico, insomma, quindi nocività ce ne sono tante. Questa del gasdotto era una nocività che si aggiunge alle altre, no? Tempo fa addirittura c'era anche la cosa del nucleare che tornava, addirittura una delle possibilità era nuovamente il Salento, insomma, quindi periodicamente ci troviamo ad affrontare questa questione della nocività. Per cui la nostra riflessione è: non possiamo fermarci soltanto a questa questione, ma possiamo provare ad affrontare la questione delle nocività affrontando il discorso in maniera più ampia, no? Provando ad avere un orizzonte più ampio. E quindi il nostro tentativo anche di coinvolgere altri che vogliono opporsi a questo gasdotto, alle nocività, insomma, è partendo da questo, e partendo dall'auto-organizzazione, comunque, dal fatto di non voler delegare a nessuno questa opposizione, ma mettendosi in mezzo in prima persona. E quindi con questi due elementi in ballo abbiamo fatto dei presidi, abbiamo fatto soprattutto l'anno scorso, l'estate scorsa, e abbiamo fatto qualche assemblea e la presentazione di questo opuscolo che nel nostro tentativo, nel nostro percorso, insomma, era un approfondimento rispetto a questa questione. E il risultato è che, insomma, con le persone abbiamo parlato, però riuscire a smuovere la rassegnazione e il fatto che si deleghi comunque a qualcun altro l'opposizione è difficile, per cui non abbiamo le masse né le folle con noi, insomma, perché l'anno scorso dicevamo che forse il problema maggiore non è tanto il gasdotto, ma proprio il meccanismo della delega, no? Nel senso che le persone sono abituate a dire: vabbè, ma comunque magari c'è il Movimento 5 Stelle, non lo so, che si occuperà di questa cosa, oppure non so, comunque c'è il politico X che in qualche modo lo farà. Quindi il nostro tentativo è anche provare a scardinare questo meccanismo. E siccome non è una cosa semplice, non abbiamo coinvolto tantissime persone, però io penso che parlando con tante persone c'è la possibilità che si possa andare, insomma, in una certa direzione. Perché oltre a noi si oppongono a questo gasdotto anche tipo il sindaco locale si oppone a questo gasdotto, quindi con le sue modalità, no? non so, interlocuzione con la regione, con il governo, e c'è un comitato che si oppone a quello gasdotto, che adotta delle modalità istituzionali e quindi sta percorrendo un'altra strada. C'è una mobilitazione a livello di informazione, di controinformazione, di sensibilizzazione, questo sì, questo accade e tante persone no, dicono di essere contro questo gasdotto. Ripeto, secondo me è un po' un percorso in divenire questo qua. Posso aggiungere una cosa? Secondo me questo è il momento in cui si vedrà se si potrà poi realmente concretizzare qualcosa, perché notizia di questi giorni, cioè il governo dovrebbe decidere entro settembre, pare entro il 17 settembre, se il gasdotto deve essere fatto oppure no. È notizia di oggi, No, si insomma, deve l'abbiamo. fare a San Foca. Se deve essere fatto a Sanfoca. Oggi abbiamo preso il giornale, insomma, c'era scritto proprio che ieri Renzi, parlando di tutti i vari decreti, eccetera, eccetera, ha parlato anche del gasdotto e il gasdotto, insomma, bisogna che si faccia. Mo' bisogna che decidano se l'approdo sarà a Sanfoca, ma se non sarà a Sanfoca, insomma, le altre ipotesi sono o più a nord nel Brindisino o più a sud verso Otranto, diciamo. Si tratta di spostare la merda di 30 km più a sud o più a nord, quindi. Alla luce di ciò, secondo me, proprio questo è il momento in cui gli animi potrebbero surriscaldarsi e vedere se c'è la possibilità poi di fare realmente qualcosa oppure se ci si continuerà, come è successo nel corso degli anni per tante altre faccende, semplicemente a piangersi addosso e a dire che questi sono troppo forti. Io penso che il prossimo mese di settembre, insomma, potrebbe anche essere particolarmente, come dire, illuminante sotto alcuni aspetti. Cioè tu dici il nemico a poter essere causa del suo male, cioè no, l'azione o la capacità di Secondo me fino ad coinvolgimento. ora, da parte di molti, c'è in un certo senso l'aspettativa che non tanto che il governo non la faccia quest'opera, come poi viene sbandierato i 420, quanto più che altro che la sposti da qualche altra parte. Perché che questi non recedano dal proposito di far arrivare sto gasdotto che comunque per adesso è fermo in Turchia, questo è poco ma è sicuro. La speranza per molti, secondo me, oppositori è che comunque la spostino da qualche altra parte. Siccome nel prossimo Ma sempre mese. in Italia? Sì. No, sempre Sempre lì in zona, insomma. Siccome nel in prossimo Italia, mese si sempre. sapranno dati più certi, questo potrebbe, insomma, far capire se poi l'opposizione potrà diventare un tantino più effervescente, oppure se non. Se bisognerà continuare in pochi, ammesso che si voglia continuare ad opporsi, a opporsi in un determinato modo. Perché anche quando ci è capitato di parlare con qualcuno che fa parte, per esempio, del comitato, no TAP, oppure che gli sta un po' attorno, la loro idea era che sì, loro si relazionavano a livello istituzionale, combattevano questa cosa a livello istituzionale, coi sindaci, coi partiti, eccetera, ma che questo era solo il primo di tanti passi che poi avrebbero compiuto, nel senso che loro poi sarebbero stati disposti anche a radicalizzare la loro lotta. Secondo me il prossimo mese poi ci dirà se questo è vero oppure no, fondamentalmente.